Il terzo anello, ad alta voce. Il richiamo della foresta di Jack London. Traduzione di Gianni Celati. Nel dicembre precedente, quando a John Thornton si erano congelati i piedi, i suoi compagni gli avevano preparato tutto ciò di cui avrebbe avuto bisogno e l'avevano lasciato lì, mentre essi risalivano il fiume per mettere insieme una zattera di tronchi da portare a Dawson. Quando salvò Buck, Thornton zoppicava ancora leggermente, ma col persistere della buona stagione anche questa infermità scomparve. E lì, sdraiato sulla sponda del fiume, nelle lunghe giornate primaverili, osservando l'acqua che scorre e pigramente ascoltando il canto degli uccelli assieme al mormorio della natura, anche Buck, a poco, recuperò le forze. Dopo aver viaggiato per 3.000 miglia, un periodo di riposo è quello che ci vuole. E bisogna confessare che Buck vi si abbandonava in tutta tranquillità, mentre le sue ferite guarivano e la carne tornava a coprirgli le ossa. Del resto tutti facevano altrettanto, Buck, John Thornton, Skit e Nig, in attesa che giungesse la zattera che doveva portarli a Dawson. Skit era una piccola setter irlandese, che aveva subito fatto amicizia con Buck, quando questi era moribondo e non in grado di rispondere alle sue mosse d'approccio. Skit aveva capacità mediche, di cui a volte i cani sono dotati, e come una gatta pulisce i suoi gattini, così essa puliva le ferite di Buck. Regolarmente, ogni mattina, dopo che egli aveva finito la colazione, essa adempiva quel compito che s'era assegnata da sola, sinché egli prese a voler le sue cure non meno che quelle di Thornton. Ugualmente amichevole ma meno espansivo, Nig era un grosso cane nero, mezzo alano e mezzo levriero, con occhi ridenti e un perpetuo buon umore. Con gran sorpresa di Buck, questi cani non mostravano alcuna gelosia verso di lui. Sembravano condividere la bontà d'animo e la generosità di John Thornton. A mano che Buck riprendeva le forze, quelli lo trascinavano in giochi puerili d'ogni tipo, ai quali non poteva sottrarsi nemmeno lo stesso Thornton. E in tal modo Buck passò ruzzolando come un bambino dalla convalescenza ad una nuova vita. Per la prima volta sentiva amore. Amore schietto e appassionato, cosa che non aveva mai provato laggiù nella casa del giudice Miller, nell'assolata valle di Santa Clara. Quando andava a caccia o a spasso con i figli del giudice, quello era un rapporto di lavoro. Con i nipotini del giudice era una specie di solenne tutela, e col giudice in persona una nobile e dignitosa amicizia. Ma quell'amore che è ardore febbrile, che è adorazione e follia, perché sorgesse in lui ci volle John Thornton. Tuttavia, nonostante il grande amore per John Thornton, che si sarebbe detto rivelasse il molle influsso della civiltà, in lui rimaneva vivo e attivo l'impulso di forze primitive risvegliate dalle terre del nord. Accucciato accanto al fuoco di John Thornton, era un cane dal largo torace, con bianche zanne e pelo lungo. Ma dietro di lui v'erano le ombre d'ogni specie di cani, mezzi lupi o lupi selvaggi, che lo incalzavano, lo incitavano, assaporando la carne che mangiava, anelando l'acqua che beveva, fiutando con lui il vento, ascoltando e distinguendo con lui i rumori della vita selvatica della foresta, orientando i suoi umori, sdraiandosi a dormire con lui quando egli si sdraiava, e sognando con lui, ed al di là di lui, tanto da divenire essi stessi materia dei suoi sogni. Tali ombre gli mandavano richiami tanto perentori che giorno dopo giorno dimenticava sempre più l'umanità e le pretese dell'umanità. Nel profondo della foresta risuonava un richiamo, ed egli, ogni volta che lo udiva, che misteriosamente ne era attratto ed elettrizzato, si sentiva spinto a volgere le spalle al fuoco e alla terra battuta attorno a lui e ad immergersi nella foresta, sempre più addentro, senza sapere dove andasse e perché, né si domandava dove andasse e perché. Quando quel richiamo imperiosamente risuonava nel profondo della foresta. Ma ogni volta che raggiungeva la soffice terra intatta e la verde ombra, l'amore per John Thornton lo riportava indietro verso il fuoco. Soltanto Thornton tratteneva Book. Il resto dell'umanità non contava nulla. Viaggiatori occasionali potevano lodarlo, accarezzarlo, ma egli rimaneva freddo a tutto ciò. E se qualcuno era troppo espansivo, s'alzava e se ne andava altrove. Quando i compagni di Thornton, Hans e Pete, giunsero sulla zattera tanto attesa, Book si rifiutò di far caso a loro, fin quando non seppe che erano amici di Thornton. Dopodiché li tollerò in modo passivo, accettando da loro dei favori come se facesse loro un favore ad accettarli. Più avanti, nell'autunno di quell'anno, Book salvò la vita a John Thornton. I tre soci stavano manovrando una di quelle imbarcazioni lunghe e strette che si guidano con una pertica attraverso una brutta serie di rapide lungo il Forty Mile Creek. Hans e Pete avanzavano sulla riva bloccando l'imbarcazione con una fune tesa tra due alberi, mentre Thornton, sulla barca, guidava la discesa nella corrente per mezzo d'una pertica, lanciando ordini a quelli che erano a terra. Book, sulla riva, ansioso ed allarmato, si manteneva a fianco dell'imbarcazione, senza mai perder di vista il padrone. In un punto particolarmente ostico, dove uno scoglio roccioso emergeva dal fiume, Hans allentò la fune. Mentre con la pertica Thornton disincagliava l'imbarcazione rimettendola nella corrente, Hans corse lungo la riva con l'estremità della fune in mano per bloccare la barca, non appena questa avesse girato al largo dello scoglio, cosa che avvenne. E l'imbarcazione sfrecciò lungo la corrente, che era rapida come la gora di un mulino. Hans tentò di trattenerla con la fune, ma lo fece troppo bruscamente. Con un guizzo l'imbarcazione si capovolse e si bloccò contro la sponda, la cinghia in aria, mentre Thornton, scaraventato fuori, era trascinato dalla corrente verso il punto più pericoloso delle rapide, un tratto di acque furibonde, dove nessun nuotatore avrebbe potuto salvarsi. Book, nello stesso istante, era balzato nel fiume, e in mezzo ad un turbine di acque tumultuose, dopo 300 yard, oltrepassò Thornton. Quando sentì che Thornton gli aveva afferrato la coda, si volse verso la sponda, nuotando con tutte le forze in modo stupendo. Ma solo lentamente riusciva ad avanzare verso la riva. La corrente lo trascinava a valle, con estrema rapidità. Più in basso si levava il rombo fatale. Là, dove la corrente selvaggia diveniva ancor più selvaggia, lacerandosi in brandelli spumosi contro le rocce, come trapassata dai denti di un pettine enorme. Nel punto in cui iniziava l'ultimo balzo, il risucchio dell'acqua era tremendo, e Thornton comprese che non sarebbe riuscito a toccare la riva. Si scorticò violentemente contro una roccia. Un'altra roccia lo ammaccò. Indi fu scagliato contro una terza roccia, con spinta tale da schiacciarlo. S'aggrappò con entrambe le mani sulla cima scivolosa, lasciando Buck, e gridandogli al di sopra del boato di acqua ribollente: «Vai, Buck! Va!» Buck non ce la faceva resistere, e venne trascinato dai flutti, lottando come un disperato, senza però riuscire a risalire la corrente. Quando udì Thornton ripetere l'ordine, si innalzò fuori dall'acqua, con la testa sollevata a gettare un ultimo sguardo, poi obbedì, volgendosi verso riva. Nuotò con forza, e fu tratto a terra da Pitt e Hans, proprio nel punto in cui sarebbe stato per lui impossibile continuare a nuotare, e una morte certa l'attendeva. Prontamente, Hans frenò Buck con la fune, come se fosse una barca. La fune lo arrestò in una curva della corrente, ed egli venne trascinato sotto la superficie dell'acqua, dove rimase finché il suo corpo non sbatté contro una roccia. Indi fu tratto in salvo. Era mezzo annegato, e Hans e Pitt si gettarono su di lui, facendogli uscire l'acqua dai polmoni per immettervi dell'aria. Vacillando si rimise in piedi, poi cadde a terra. Giunse allora il debole suono della voce di Thornton. E sebbene non capissero cosa diceva, compresero che era all'estremo delle forze. La voce del padrone agì su Buck come una scossa elettrica. Balzò egli in piedi e corse lungo la riva innanzi agli uomini, fino al punto in cui si era lanciato la volta precedente. Thornton lo vide che stava arrivando, e quando Buck lo investì come un ariete con tutta la forza della corrente dietro di sé, egli allargò le braccia e si strinse attorno al collo arruffato. Hans fissò la fune attorno ad un albero, e Buck e Thornton furono trascinati sott'acqua. Soffocando, mezzi asfissiati, e traendosi sotto l'un con l'altro, sbattendo contro il fondo scabroso e urtando contro rocce e tronchi, infine toccarono terra. Con ventre in basso, spinto violentemente avanti e indietro su un tronco d'albero da Hans e Pitt, Thornton riprese i sensi. La prima occhiata fu per Buck, sopra il cui corpo inerte ed apparentemente privo di vita, Nick stava accucciato mugolando, mentre Skeet leccava il muso bagnato e gli occhi chiusi. Anche Thornton era ammaccato e contuso, ma appena lo trassero in piedi, andò ad esaminare con cura il corpo di Buck, scoprendo che aveva 3 costole rotte. «Non c'è altro da fare», annunciò. «Ci accamperemo qui». E rimasero accampati in quel luogo finché le costole di Buck non si aggiustarono ed egli non fu in grado di viaggiare. Thank you. Ad Oson quell'inverno, Buck compì un'altra prodezza non altrettanto eroica, ma tale da porre il suo nome di parecchie tacche più in alto nell'albero della fama in Alaska. Quest'impresa fu particolarmente redditizia per i tre uomini, giacché fornì loro l'equipaggiamento di cui mancavano e li mise in grado di intraprendere un viaggio che da molto sognavano di compiere verso le terre vergini dell'Est, dove i minatori non erano ancora spuntati. La cosa avvenne in seguito ad una conversazione nell'Eldorado Saloon, dove gli uomini vantavano le virtù dei loro cani preferiti. Data la sua rinomanza, Buck era il bersaglio di quei discorsi e Thornton era costretto a difenderlo con vigore. Dopo circa mezz'ora, uno dichiarò che il suo cane riusciva a smuovere una slitta con 500 libbre, nonché a trainarla. Un altro vantò che il suo cane poteva giungere a 600 libbre ed un terzo arrivò a 700. «Roba da ridere», disse John Thornton. «Buck riesce a farcela con 1000 libbre». «E a sbloccarla dal ghiaccio e marciare per un centinaio di yard?» chiese Matthewson, uno dei re delle vene aurifere di Bonanza, lo stesso che aveva vantato 700 libbre. «E sbloccarla e marciare per un centinaio di yard», disse John Thornton con freddezza. «Bene», disse Matthewson lentamente e con tono deciso, così che tutti potessero udire. «Ho qui $1000 per scommettere che non ce la fa. Eccoli». Così dicendo, sbatté sul banco un sacchetto di polvere d'oro delle dimensioni di un salame. Nessuno fiatò. Il bluff di Thornton, se di bluff si trattava, aveva trovato qualcuno che veniva a vederlo. Egli sentì un flusso di sangue che gli saliva al viso. La sua lingua l'aveva messo nei pasticci. Non sapeva se Buck riuscisse a smuovere 1000 libbre, mezza tonnellata. Inoltre, egli non aveva $1000, né li possedevano Hans o Pete. «Ho qui fuori una slitta con 20 sacchi di farina da 50 libbre l'uno», continuò Matthewson con tono rude e sbrigativo. «Quindi ne puoi approfittare». Thornton non rispose. Non sapeva cosa dire. Girò gli occhi di volto in volto, con l'aria assente di chi abbia perso la facoltà di pensare, e cerchi in giro qualcosa che gli permetta di rimettere in moto i pensieri. Il volto di Jim O'Brien, uno dei re delle miniere di Mastodon, il suo camerata da molto tempo, attrasse il suo sguardo. Fu per lui un suggerimento, come se quel volto lo stimolasse a fare ciò che non aveva mai sognato di fare. «Puoi prestarmi $1000?» chiese quasi in un sussurro. «Sicuro», rispose O'Brien, sbattendo un sacchetto stracolmo accanto a quello di Matthewson. «Benché non ci creda molto che la bestia possa farcela». L'Eldorado riversò sulla strada i suoi clienti, che correvano ad assistere alla prova. I tavoli rimasero deserti. Gli scommettitori da libratori uscirono a vedere come si concludeva la sfida e a proporre scommesse. Alcuni offrivano a 2 contro 1 che Buck non sarebbe riuscito a smuovere la slitta. Nessuno scommetteva a suo favore. Neanche uno lo credeva capace di una simile impresa. La squadra di cani fu staccata e Buck fu attaccato alla slitta con i propri finimenti. Era stato contagiato anche lui dall'eccitazione e sentiva che in qualche modo doveva compiere qualcosa di importante per John Thornton. Thank you. Silenziosa. Si potevano udire soltanto le voci degli allibratori che inutilmente offrivano puntate due contro uno. Tutti riconobbero che Buck era un superbo animale, ma 20 sacchi di farina da 50 libbre erano troppo per indurli a allentare le borse. Thornton si inginocchiò accanto a Buck, gli prese la testa tra le mani e rimase così, guancia a guancia con lui. Non lo scrollò in modo scherzoso come soleva fare, né gli mormorò dolci insulti amorosi, soltanto gli sussurrò qualcosa all'orecchio. «Se mi vuoi bene, se mi vuoi bene», fu quanto gli sussurrò. Buck guaì di ardore represso. La folla osservava con curiosità. La faccenda stava diventando misteriosa. Pareva una specie di stregoneria. Quando Thornton si rizzò in piedi, Buck afferrò la sua mano guantata tra i denti stringendola e poi lasciandola lentamente, come con riluttanza. Thornton si trasse indietro, a giusta distanza. «Su, Buck!» disse. Buck fece forza nei tiranti sino a tenderli. Poi li allentò di qualche pollice. Aveva imparato a fare così. «Adesso, marsh!» L'ordine di Thornton esplose come un colpo di pistola. Buck si lanciò in avanti, tendendo i tiranti con uno strappo violento. Tutto il corpo era raccolto nel tremendo sforzo. I muscoli si contraevano convulsamente, si gonfiavano come animali sotto la serica pelliccia. Il suo grande torace era abbassato sino a terra, la testa in basso in avanti, mentre i piedi sbattevano come ali impazzite, con le unghie che scavavano due solchi paralleli nella neve indurita. La slitta oscillò tremando. Già un po' mossa in avanti, Buck scivolò su una zampa e qualcuno lasciò sfuggire un grido di disappunto. Poi la slitta rollò di colpo in avanti e questo suo rollare pareva una rapida sequenza di scosse, benché in effetti non vi fossero interruzioni. Mezzo pollice, un pollice, due pollici. Si vedeva che le scosse si diradavano a mano che la slitta acquistava spinta. Buck le diminuiva fino a quando il movimento non divenne continuo. Gli uomini rimasero a bocca aperta. Poi tirarono finalmente il fiato, senza rendersi conto che per qualche tempo avevano cessato di respirare. Thornton correva dietro a Buck, incoraggiandolo con brevi parole festose. La distanza era stata misurata. Quando Buck si avvicinò alla catasta di legno che indicava le 100 yard, l'applauso cominciò a crescere sempre più, poi esplodendo in uno scroscio di urla, non appena oltrepassò la catasta. Tutti si lasciarono andare come impazziti, compreso Matthewson, con cappelli e guanti che volavano per aria e gente che stringeva la mano senza badare a chi, ed usciva in un gorgoglio di risate in mezzo ad una confusione babelica. Invece Thornton cadde in ginocchio accanto a Buck e la testa contro la sua testa lo scrollava avanti e indietro.